init for you. Init your music for you. Con contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Nuova settimana su Radio Sherwood 97 800, Radio Sandona 102.2. Siamo tornati, purtroppo Music for you è di nuovo in onda e quel bel facciotto limpido di Alvise Favotto mi guarda con degli occhioni sbarluccicanti. Il classico gatto di Shrek. E insomma, sì, siamo tornati. È un purtroppo vi capiamo, è una tristezza. È un po' novembre anche, radiofonico. Sì, cadono le foglie dalle nostre ascelle. A questo punto abbiamo un ospite stasera, anzi due ospiti. Si paragonano al People Mover di Venezia, ma hanno una Z in più, forse la Z di Venezia. Ciao Pupo, ciao Pino. Ciao ragazzi. Ciao. Volete essere chiamati diversamente? Avete dei nomi? Tipo, vabbè. Pino preferisce Nopius. Per sì, cui... Narte Nopius e Pupo. Pupo, sempre stato Pupo. Alla fine Pupo mi riconoscono dappertutto. Ma senti che bella pronuncia veneta, che tra l'altro che è la classica pronuncia con la pallina al tennis in bocca, vero? Sei 20 anni che sono qua e parlo ancora così. Ciao. Sì. No, invece so de Roma e siamo qua appunto a presentare il progetto nostro che sarà 2-3 anni che sta in piedi, no? Ma non esagerare l'accento, che non ti conosco così. che quando tipo mi viene da parlare tipo romano, sì. mi pia meglio. La classica schiettezza romana, no? Sì, ma soprattutto prima di addentrarci nel progetto People Movers, perché hai guardato il Piave e il Po e hai deciso di salire fino a qui? Che è proprio una brutta terra, cioè noi non abbiamo problemi a riconoscerlo, sto posto. A noi niente, sono stati i genitori miei che sono trasferiti ancora mille anni fa, ancora. Ma che scelta! Comunque se sta bene, qua Sandona se sta bene. È bello averti qui, tra l'altro. No. Ricordiamo che comunque non sarebbe nato il progetto People Movers senza comunque, che è un tu la reputi più una fortuna o una sfortuna il io fatto la che sia una nato. Fortuna perché poi ultimamente le collaborazioni con Pupo sono produttive, sì, sono prolifiche, siamo più all'attivo diciamo nel collettivo tra quelli che tra l'altro spiccano un po' di più. Io nel mio non sapere niente leggevo un loro volantino l'altro giorno. Pupo, un DJ con una storia. Cioè, Pupo suona ovunque in Europa. Ci rendiamo conto? Se è vero che ti cazzo me? Mo mi vergogno, dai ragazzi. No, vabbè, dai, un po' di feedback. No, dai, un po' tipo da quando avevo 19 anni ho preso i dischi in mano. Mi è piaciuto suonare subito musica comunque che nessuno gli piaceva solo a me e altri tipo 1000 persone in Italia. Tipo che era ancora all'epoca industrial, frenchcore, hardcore, così ai rave in Svizzera andava una cifra. Sempre continuato con sta musica e comunque mi ha portato a suonare la cifra di parte. Comunque ero un ragazzino, conosci quello, conosci quell'altro, va di là, va in Svizzera. Poi romani, brutta gente, tutte che fanno se vanno riconosce. Toccano cose, dai, si dai, maneggiano dai, poltrone dai. Qua c'è la Svizzera, c'è l'oppio, andiamo in Svizzera. E c'è Pino, era già qui che ti aspettava e ha piantato i picchetti. Pino sempre qua, fisso. Sì, io vengo da una realtà un po' diversa che è quella dell'hip hop. Comunque nel collettivo, tagliando breve, sì. Diciamo che tutto quello che ci accomuna è lo spirito underground comunque. Quindi tutti i generi che possono essere reggae, drum and bass, hip hop, breakbeat. E trattiamo core, hardcore, industria, cioè una cifra di influenze fino a quelle più underground. Esatto. Però ovviamente trattiamo molto meno, anzi praticamente niente, generi commerciali come può essere la dance, la house, la pop, cioè il proprio... pop come vuoi chiamarlo, no, ormai tranquillo. Che c'era la house avevo detto anche la pop. E in che cosa si concretizza il progetto People Movers? Perché adesso la traccia augurale, chi inaugura questa puntata è la vostra. È un progetto nato così proprio per passione, infatti stiamo proprio ora cercando di metterlo in attivo con qualche data. Abbiamo cominciato con l'evento Bass Trick al Revolver. Abbiamo Che è cominciato? Tipo già l'anno scorso facevamo una cifra di feste. Quest'anno dico il Bass Trick. Sì, vabbè, ma dico in zona San Donà. Zona San Donà, zona San Donà. Revolver. Abbiamo Revolver sempre suonato fuori. Comunque, sì, vabbè. A Revolver, Revolver. A pronuncia alla romana. Romano-francese, Revolver. E a questo punto io andrei a sentire questa canzone che a me riempie di gioia. Sì, veramente ci riempie di gioia, ma perché questo campionamento da novantesimo minuto? Perché... Innanzitutto, di chi è la produzione? Allora, la produzione, questa qui, è puramente 50-50 tra me e Pupo. Oh, che meraviglia. Ed è l'unica che è proprio riuscita a bilanciare le nostre influenze. Aspetta, stile, ho un'ipotesi, poi quello che lavora di più sei tu. Mi metto sotto abbastanza, sai, da Roma, capitale. Guarda, l'avevo pensata sta cosa. Ecco, sfrutta sta roba del nord-est produttivo, esatto. E qua tutti lavoreremo a testa bassa. Okay, diciamo che già i tagli della radio qua, dura la canzone dura 7 minuti, non se può, 3 minuti de meno, e comunque... Vi faremo ascoltare solo 3 minuti e cioè basta, il resto non lo sentirete mai la più. Versione integrale su SoundCloud. Su sì, SoundCloud? Dai, la carichiamo, okay. La caricheremo prossimamente. Pupo, visto che sei molto spedito, vuoi presentarla in maniera radiofonica e devi dire Music for You, dai, vai. Music for You, questa canzone di Nopius FT è un remix del 90° minuto, dai, vai! Let's go. su Radio Sherwood 97800 RSD 102.2 Music for Youth. Questo era il remix di 90esimo minuto. Dateci un nome a sta traccia, perché dire il remix di 90esimo minuto. No, c'è sta il nome, non l'ho detto prima. È no. Gol, il nome è Gol. Come le caramelle. Gol al 90esimo minuto. Tra parentesi, al 90esimo. Pellissier su assist dei Marcolini, il capitano del Chievo. Mamma mia, come cadere in basso proprio. Secondo me perfino Galeazzi potrebbe ballare su una traccia del genere, che sì, è un'immagine tra l'altro e bellissima. Perderebbe gli arti inferiori in quel momento là. Comunque siamo rientrati in studio, se non vi siete accorti, ma immagino di sì, purtroppo per le vostre orecchie. Questa è Music for Youth e la parola va al Vise Favotto, che notoriamente è quello che propone le domande buone. No, io allora vorrei chiedere innanzitutto ai nostri ospiti, come nasce la vostra idea, come nasce questo progetto in sostanza? Sostanzialmente, allora, come abbiamo detto prima, la passione proprio per sti generi che prevalentemente non vengono proposti, ripeto, reggae, hip hop, drum and bass, techno, sono tutti generi che per seguirli bisogna spostarci in zone magari Bologna, l'Emilia Romagna, Padova, Vicenza, eccetera, eccetera. Per cui abbiamo pensato di prendere in mano un po' la situazione e di accontentare la gente che segue questi generi, che comunque è parecchia. Amici. Anche perché qua intorno non c'eravate solo voi due. No, c'era esatto. Parecchia altra gente. Esatto, c'era parecchia altra gente come il Diop, noto come Critical DB, Corex, e Floriano, i Morfunkers, Corex. Ma c'è sta pure il socio tuo. È il socio mio, Rouge degli Overall, esatto, ho messo per ultimo, beh, perché è quasi scontato ormai, è mio fratello anche in Facebook, anche se comunque abbiamo cognomi diversi. Alla fine, no? Tipo, la cosa bella è che ognuno arriva tipo... vabbè, stavo a parlare della microfono, è qua, mi sono scordato. Cioè, vabbè. No, ci sei con i volumi. Ci so, bene. Poche parole, ognuno arriva da una musica diversa, no? È proprio là che ci ritroviamo tutti insieme e dimo, oh, fammi una festa hip hop, bella. Fammi una festa tipo drum and bass, bella. Fammi una festa così. Oppure se pure fai feste mischiate, si può fare... È quello il bello, è proprio là, la passione per la musica nasce proprio da quello che a noi non è che c'è... Volemo i soldi, volemo andare a suonare, fai i soldi. Noi lo famo proprio per passione, capito? Capito, Favotto, che è come la paella, cioè la puoi fare di pesce. Sì, la fai anche di o carne. O la fai di carne, o puoi anche farla di carne, pesce di carne a carne sera. Misto pesce, esatto. Noi famo proprio una paella di quelle. Potremmo andarla a mangiare da Reuter, che mi ha detto che ha riaperto. È vero. Sotto edizione spagnola. Cioè, questo momento di organizzazione radiofonica, esatto. Per gente di Padova che non gliene frega assolutamente una cippa. Radio Sherwood, ascoltateci. Venite a Musile di Piave, Reuter, al ponte della catena, più o meno, ha riaperto. Sì. Un posto bellissimo in quel di Meolo. Molto bucolico. Eh sì, e fanno una grandiosa paella che noi non abbiamo mangiato, però sì, la gente ne parla dicono. Meno. È quello che fa cucina spagnola e fa i polpettine pure cose impanate. Date da Reuter, rimarrete una cifra... Stupiti. Grande. Sappiate che ci sono anche i Massive Attack, hanno usufruito del famoso servizio catering di Reuter. Sì, Reuter for Massive Attack, E da lì hanno tratto ispirazione per creare l'ultimo album Heligoland, del quale abbiamo estratto il secondo singolo qui prodotto, che si chiama Spitting the Atom, un po' quello che vuole fare Carlo Rubbia, sì. Dividere l'atomo sostanzialmente. In sostanza, loro cosa fanno? Fanno questa canzone... che viene da un album, secondo me, se devo dire, un po' meno convincente rispetto alle prime sotto prove. Sotto le aspettative, senso, dai. Ma perché io, probabilmente, cioè, il primo amore non si scorda mai, Giulietta e Romeo, queste cavolate qui. Pensa che però loro, ragazzi atti al sociale, sì. Hanno anche firmato una traccia per il film di Saviano, Gomorra, nel 2008. Pensati te. Mi sono informato in internet. Ed mi è stata visualizzata questa informazione qui. Massive Attack hanno una loro storia dietro, sono un bel collettivo che poi ha dato vita anche ad altri progetti, sono i fuoriusciti, posso pensare a Tricky, posso pensare al progetto Portishead, un bel po' di gente. Nel caso ci contattino, perché sappiate che sono di casa da Reuter e spesso li incrociamo, vi facciamo fare un featuring. Certo, Reuter, un nome e una garanzia. Soprattutto. T'aspettavo. Dai. Spitting the Atom di Massive Attack, del loro album Heligoland del 2010. Questo è Music for Youth. Dai. Spit in the Atom dei Massive Attack dell'album Heligoland. Siamo rientrati in studio, questa è Music for Youth. Palla al balzo a Favotto, che gira la parola a People Mover, un collettivo come sono un collettivo i Massive Attack dal 1987 sulle scene mondiali, From Bristol with Love. Bene, noi torniamo a parlare di People Mover e a questo punto andiamo a introdurre il prossimo pezzo. Il prossimo pezzo ce lo fa Pino. Esatto, esatto. Perché? Ok, allora, il perché. La necessità di sto pezzo qua, a parte che, ripeto, siamo amanti di molti generi, quasi lo stesso percentuale di apprezzamento, diciamo, no? Sì. Ok, per cui... Inegui. Inequi. Esatto, se possiamo dare questo neologismo, sì, cioè, sì, ce la dai buona. Okay. Bene, e niente, la necessità non è stata necessità, è stata praticamente l'occasione di uscire con una data comunque che proponeva sto genere, che era drum and bass, per cui io che sono produttore da un bel po' di anni, sempre underground, però diciamo ho cominciato 10 anni fa a produrre hip hop, poi ho alzato tra virgolette i BPM, diciamo, usiamo sto gergo, per cui ho aumentato la velocità passando per la breakbeat fino a scoprire appunto la drum and bass e a seguire più sto movimento qua che propone drum and bass e techno. Il pezzo è stato un attimo una sperimentazione e un aggiornamento dei suoni attuali. E volendo citare un riferimento, un gruppo, un DJ che si possa conoscere per il nostro pubblico qui che è desideroso? Beh, qua lasciamo comunque parlare il pupo, uno dei DJ che propone. Mi fa parlare a me perché tipo l'inglese, cioè, è come l'italiano alla fine, cioè, come il dialetto veneto, no, okay, l'inglese. Pure DJ Fresh è commerciale, fa drum and bass commerciale in Fresh inglese, tra l'altro Dio Fresh è tipo il famoso Fresh, però comunque c'ha queste sonorità che comunque a me piacciono. Camo in Kruger, che sto da Vienna, e comunque stanno a fare una drum and bass che è un misto drum and bass, cassa dritta, tipo techno minimal. Un bel genere, sì, ci piace, ci piace. Ma se volessimo ricondurre il genere drum and bass, tipo, a un figuro qualsiasi, tipo, il viennese mi sa molto di drum and bass. A me, il viennese mi sa molto da gelato. Però, la viennese. Anche, o la viennetta. Esatto. No, anche l'ungherese, tipo il salame, mi sa molto da drum and bass, però... Un tipo cubano che mi fa drum and bass non mi viene in mente. No, no, infatti comunque drum and bass scena proprio... Da chi ne è so, prodotta? Io, comunque Inghilterra, comunque Londra. Olandesi, anche Londra. Noisia, Black Sun Empire, Londra, vabbè, si sa, è la capitale dell'elettronica, per cui tutte le novità comunque anche Bologna per l'Italia, drum and bass è sempre stato il cuore. Comunque fai una festa a Bologna drum and bass, arriva una cifra di gente, fai... Tipo una festa drum and bass con una cifra di ospiti, poi fa, che ne so, a Gorizia non viene nessuno, zero, non si sa. Sì, lo spirito è molto vivo là a Bologna, nell'underground, per cui... Avete fatto ascoltare per caso in giro il pezzo che andremo a ascoltare noi no, adesso? No, non ancora, è praticamente un'anteprima, non è caricato da nessuna parte. Siamo lusingati a questo punto. L'avevamo tenuto apposta perché ci avevi detto che dovevamo venire a registrare. Non è neanche passato per lo studio per fare il mastering finale, per cui è proprio stato esportato da Ableton, messo file wave e caricato sul Windows Media Player. Una bella versione grezza come piace a noi. Eh sì. È un remix di qualcosa? È una produzione homemade? Cioè non parte dal nulla? No, homemade, autoprodotta, non ci sono campionamenti, c'è solo un vocalizzo, ma sono tutti sample free, insomma. Il vocalizzo, il vocalizzo è pupo, vero? No, su sto pezzo, se posso dire a mia, che il pezzo è De Pino, proprio qua si sente la maturazione proprio musicale. O maturità, se volete. Vabbè, quello che è, sempre comunque... maturazione è più d'effetto. La macina che va avanti sempre. È partito adesso. Senti, e ce lo andiamo ad ascoltare. Questo è Why Rain di People Movers. Dai. We'll be right back. Queste erano le interferenze di Pupo su White Rain. Che parlo così. Bentornati, questa è Music for You, Radio Sherwood 178, Radio Sandonà 102.2. E si chiedeva giustamente che parlo così perché, appunto, come avrete capito, il campionamento è la voce di Pupo. Nettamente canta la voce in di Pupo. Doccia. Siamo tornati in studio e si diceva, Favotto, che insomma, sti ragazzi mi pare che non abbiano suonato solo in determinati posti. No, infatti, noi qui abbiamo capito che hanno fatto una qualche serata in cui hanno suonato drum and bass. Poi hanno fatto una serata al Revolver, ma c'è molto prima. C'è molto prima e molto anche durante, che comunque non è stato detto, perché comunque durante, qua non l'avevamo detto, ma comunque la scena si propaga comunque nel nord-est italiano. La macchia nera di petrolio. Sì, proprio fino a Vicenza, che comunque dove a Vicenza, bene o male. Magna gatti. Non si dice, perché comunque non più. Una volta sì, ma adesso non lo dico. Leggenda metropolitana. Non lo dico. Perché comunque là, insieme a degli amici sempre di vecchia data, comunque c'è un altro progetto molto molto molto più underground, molto più estremo, dove proponemmo tipo French core, hardcore, che era musica che comunque ho sempre fatto io. La classica musica radio friendly. Esatto, quello. Certo, infatti non ho portato niente qua, mi dispiace ragazzi per voi. La mia nanna prima di andare a letto. La classica tua, che comunque va molto di moda. Cioè, tipo questa è una musica che io tipo già suonavo 10 anni fa, poi mi hanno fatto uscire da un gruppo che... A Pedate? Suonavo a Milano, non a Pedate però con le buone. Mi hanno cacciato perché facevo sta musica tipo che si chiama Frenchcore, perché era troppo commerciale, e infatti tuttora è commerciale, però comunque è l'unica che comunque è rimasta da 10 anni a sta parte. Tipo altre musiche tipo l'hardcore e tribecore, altfloor, sono andate e venute, comunque la Frenchcore è sempre rimasta. Perché il francese alla fine piace. Te lo dice anche Aphex Twin che il francese piace, lo sai? Sì, soprattutto perché Aphex Twin non è francese. È francese e infatti viene dalla Cornovaglia, esatto. Più specificatamente da Limerick. Sì. Il ragazzo nacque il 18 agosto 1971. Dov'è la Cornovaglia? Oh? Dov'è la Cornovaglia? Nel sud dell'Inghilterra, verso est. Ovest, sono anche dei campi di fragole, sì, a quanto pare. Il ragazzo, perché l'abbiamo scelto? Perché è stato attivo anche lui in campi come la drum and bass. Lui spacca, sempre spaccato. Ambient, un po' di acid house. È il maestro proprio della programmazione MIDI, con due suoni ti crea il disastro. E poi, che signor video non era quello di Window Licker con questa limousine che scorreva, lunghissima? Lui è proprio, secondo me, uno di quelli complessi, proprio, cioè, 100%, perché proprio al visual le associa comunque le produzioni sue e i video. E crea proprio sta, cioè comunque ha accorto proprio il segno, come si dice, no? Uno dei pochi artisti completi. E tra l'altro, infatti, si dice completo che lui è stato anche in grado di produrre un album che si chiama Drax, cioè, mm-hmm, è la pronuncia giusta? Sì, Drax. Che raccoglieva anche alcune composizioni per piano, esatto, insomma, per dire, gran pezzi. Esatto, proprio tu guarda un cervello in due, perché io vorrei proprio citare da Drax una composizione sua di 2 minuti e mezzo per solo piano, si chiama Nanu. Sentitevela assieme al French core di Pupo, è la classica cosa che può mandarvi a letto contenti. E quelli le casalinghe di Vicenza direbbero: no, ma non sembra mia lui. Esatto, ma non le sa e ame questo. Invece noi vi facciamo sentire una produzione che vera e propria di Aphex Twin, no, non è per nulla assimilabile alla produzione di Drax, si chiama Window Licker, non mi ricordo l'album nel quale è estratta, però è un masterpiece bello e buono, per cui andatevelo a recuperare. Music for Youth, Aphex Twin, questa è Window Licker. What? Licker, questo era Aphex Twin dalla Cornovaglia con Furore. Siamo rientrati in Music for Youth RSD 102.2 Radio Sherwood 97 800 People Movers. Yeah, presenti, dai. Eccoli qua. E Elvis e Favotto. Tra l'altro, sugli posso, scudi. Se posso dire una cosetta su su Aphex. Aphex Twin. Anche io ho grossi problemi in pronuncia, infatti, questo, cioè, qua. Non puoi darti un nome del genere. Secondo me, comunque, è stato in Italia l'estate scorsa in quel della Toscana, di spalla ai Kraftwerk. A Livorno? Sì. Ci sono andati dei miei amici inglesi e mi hanno raccontato di un... siccome ci sono stati dei problemi di tempo, nel senso che... Guarda, pensavo i bottigliati. Nel senso che i Kraftwerk che erano persi, ma a mangiare wurstel o cose. A mangiare Kraftwerk. Esatto. Aphex Twin si fa quelle tre ore di show tranquillamente, molto felice, doveva fare molto meno. Sotto il sole del picchi. E lui è convinto di farne una e mezza e lo pagano per una e mezza, però... Lui ne fa tre. Esatto. Con i tifosi del Livorno non ancora paghi di avere Cristiano Lucarelli. Sì, questa è la vera passione, comunque. Sì, è stato preso per questo. Beh, noi sforiamo anche di 4 ore e a volte non ci pagano neanche, per cui... Vai, suona per 5 ore, dai. Il pezzo in arrivo è La scelta degli ospiti. E La scelta degli ospiti ricade su Useless Food and Toys featuring Mistaman. Il pezzo si chiama Bomba. Scegliete qualcosa di più radio-friendly. Sembra un codice fiscale al nome. Ma io volevo dire, Useless Food and Toys sono quelli di Siete pronti? Allora mi stimo. Proprio loro. Infatti sono i ragazzi, Corex e Floriano, pure loro i People Movers della crew, de qua e de là, che comunque hanno vinto un contest con sta canzone. Noti, no? Sì, come More Funkers, sì. Non hanno una vocale, o forse la O e basta, poi il resto del nome sono consonanti. Dal mio, se no sarebbe troppo lungo. Comunque, dal PC si dice solo una vocale, sì. Perfetto, niente. E quindi chi lo pronuncia questo? Non io. No, non è da pronunciare. Comunque... Se mettono pure le maschere. Morfunkers. Sono dei supereroi. Morfunkers. Morfunkers, supereroi. Maschere. Suonano mascherati. Suonano mascherati. Sì. Ma è gente anche... brutta. Se poi gli togliamo la maschera, possiamo anche organizzarci un festino. No, se va a parlare ste robe. Va bene. Non so, c'ha una maschera, io non ho mai visto. Non ho visto con la maschera io, Lo facciamo andare sto pezzo, a favore. Ma io direi proprio di sì. Questo è il 97.8 di Radio Sherwood, il 102.2 di Sonora. Bomba! Quando rappo io spacco il micro, spacco tutto un mixer, Twitter, woofer, ah, yes, yes, yo. Freak, freak, yo. Quando rappo io spacco il micro, spacco tutto un mixer, Twitter, woofer, caccio rime con il super flow. Freak, freak, yo. Caccio rime con il super flow. Freak, freak, yo. Caccio rime con il super flow. Freak, freak, yo. Caccio rime con il super flow. Freak, freak, yo. Rime, freak, freak, yo. One time for your mind, tiriamo sul macello. Disco no hi-fi, ready for the cervello. One time for your mind, one time for your mind, one time for your mind, one time for your mind. che poi nel futuro resta giù. Non rialzati, abbiamo il group che di volta al party conosci il nome, lo sai chi siamo. Quando canti in ascensore noi su un altro piano. Useless Food and Toys featuring Mr. Man, questa è Bomba dei More Funkers. Grazie per l'assist, un remix tra l'altro, Favotto. Eh sì. E sulla parola remix tu ti animi e mi spari i contatti. Vai. Andato in loop. 0421560993 per mandarci un messaggio o per telefonarci, più probabilmente telefonarci, perché provate a mandare un messaggio a un fisso, non funzionerà. Altrimenti 0421560994, ci mandate un fax, risponde Pupo e vi manda del French Core. E a infine duetti a mezzo, ma via esatto, duetti di French Core che stanno sempre bene con anche il prosciutto tagliati di fini Prato. Fini esatto, ovviamente poco grasso, perché sennò sì, poi giusto un fieto così a benetta di rappresentanza grasso, perché esatto. comunque piace anche perché dopo ti scalda poi mo c'è sta pure la Speed Core a metà prezzo che se stanno i sardi a 300 bpm sembra una droga tra l'altro. Vuoi della Speed Core? Non ricorda nessuna droga poi no. Tra l'altro no. Cioè, no. Comunque i People Movers, se si vogliono scaricare la puntata nella quale non ho detto tante di quelle vaccate che a metà fa basta certamente. Che vadano su musicforyouth.wordpress.com, il blog dal quale per l'appunto tirare giù il podcast o ascoltarsi le nostre boiate in streaming. Ci autocampioniamo. Altrimenti su Sherwood fate la stessa cosa, c'è una pagina apposita di Music for Youth e direi che sono anche finiti i contatti internet tra una cosa. Ah, il gruppo in Facebook Music for Youth. La pronuncia per i non anglofoni, avvisa Favotto, è YOUTH. Se volete cercarci, siamo lì. Iscrivetevi al gruppo. Vi arrivano le puntatine in posta una volta a settimana. Bella, bene. Bene. Con l'approvazione di People Mover, direi che possiamo campare in altri 100 anni. Sì, a chi è data l'idea di chiamarvi People Mover? Al Diop. Grande fondatore dei People Movers. Il Diop, grande ravers. Ma te non ricorda niente, Alvise, People Movers. Che poi è People Movers. Con questa Z che fa sto collettivo veneziano, cioè, il coso veneziano, quello che muove, quello che si muove dal tronchetto, cioè l'unica cosa che mi viene in mente. Trasportatore di persone, esatto. Proprio. Noi attraverso sti eventi qua, vabbè, molto poetico detto così, però cerchiamo di fare la stessa cosa, muovere no? Le persone, di muovere, smuovere le persone, neanche muovere. Io ero per un nome smuovere. Un po' più romano, tipo Massimo il Gradiatore Q, una roba del genere. Roma dai, spara, Venezia risponde con una granata tra l'altro. Sì. Roma però spara con le pistole ad acqua. Diop ha deciso così. Quelli da Magliana. È la banda della Magliana. Salutaceli tanto. Qua a Garza, andiamo a suonare qua a Garza. Salutaceli tanto anche sul grande raccordo anulare. Se trovi anche Venditti. Sì, sicuro anche, che è l'allu. Anche sul grande raccordo anulare Crew. Secondo me potrebbe essere. È un grande raccordo. Grande. Anche sulla Salaria, se trovi qualcuno. È un po' salario, brutte strade, tra l'altro arterie. Si parla di che cosa? Dei Beastie Boys. I ragazzi qua mi avevano portato un pezzo che non mi ricordo qual è. Io è stato Sabotage. mi stavi suggerendo tra l'altro il pezzo un po' in là oltre al microfono per dirmi guarda che Lele è questo qui, non ti ho capito, non mi hai puoi capito, dirlo tu. Vabbè, pensavo che parlavamo, parlavaste, parlavassero, sì, parlavassero soprattutto, parlavassero, è un neologismo, siamo al 2011, bisogna... Insomma, di 50. In ogni caso, Pupo mi guarda. Comunque, 50 cents. Dai. 50 cents. È stata schedulata dopo, non ti offendi? No, assolutamente no. Assolutamente no. Irrompono i Beastie Boys. Beh, i Beastie Boys sono il mio gruppo di riferimento comunque. Super street, attivi anche loro. Ormai hanno 50 anni e so ancora che vanno. No, beh, non, comunque vanno ancora avanti. Forse una produzione è di prossima uscita. Si sono un attimo fermati perché uno dei tre non se la passava sto granché bene. Eh no, infatti ha avuto, povero, dei problemi, diciamo, personali. A quel punto, beh, loro cosa dire sui Beastie Boys? Partono in quattro, uno si toglie, restano in tre. Quando restano in tre fanno qualcosa di meraviglioso che sta tra l'hip hop e l'elettronica. Correggetemi se sbaglio, se no anzi potete tirarmi delle bottiglie o delle pietre a scelta. Fanno una serie di pezzi che hanno dell'incredibile, che spaziano tantissimo tra l'altro, perché parlare di elettronica e hip hop è abbastanza poco, cioè è abbastanza riduttivo parlando di Beastie Boys, perché puoi andare dal funk al quasi jazz al mambo. Io ho presente delle cose assolutamente. In questo pezzo sono ancora preponderanti abbastanza le chitarre, le prime produzioni erano ben innestate nei sì, di Beastie Boys. Loro, il primo album comunque, se non sbaglio, si chiama addirittura Aglio e Olio ed è una produzione punk. Peperoncino ce l'hanno messo loro con il punk, perché se lo ascolti veramente è una canonata. Poi loro hanno mantenuto queste influenze qua e Mixmaster Mike, come dicevi, comunque è una bomba e li ha portati a unire queste due cose. Questo è un classicone di Beastie Boys, lo trovate anche nell'antologia che potete recuperarvi se avete poco in mente dei Beastie Boys stessi. La copertina assomiglia a Rotten Apples e Judas Soda di Smashing Pumpkins. Basta, ho finito. Sabotage dei Beastie Boys, Music for Youth. Yeah. Sabotage dei Beastie Boys, siamo rientrati in Music for Youth, si parlava di remix e un remix è stato fatto e la traccia era An Open Letter to New York. An Open Letter to New York, esattamente. Quella che tu volevi suggerirmi canzone. Prima. Sì, esatto. E tu ci hai messo le tue belle manine sopra. Pensavo svolenassi con 50 Cent. Sì, ho preso, scaricando campioni, scarico spesso anche sti a cappella che sono nient'altro di meno che le voci pure, praticamente bianche, la traccia voce, per cui mi diverto anche a fare ogni tanto qualche remix, come questo qua dei Beastie Boys, che è una drum and bass più tenente al break che a drum and bass, un altro esperimento, diciamo. Io andrei a sentirlo questo, questa fatica, quasi, voglio quasi dire, perché alla fine la trovo una cosa bella, perché come diceva Pupo, sì è vero, i Beastie Boys li remixano tutti, però... Cioè, ognuno ha la propria maniera, no? Esattamente, quello cioè, è bello. Ci sarà del valore aggiunto in questo lavoro. Sì, infatti, parte, io posso dire che sì, comunque hanno fatto Cani e Porci, remix di Beastie Boys. Sì, sì, guarda anche noi. Molti, e Pino però in questa maniera l'ha fatto sopraffino. Sempre così. Sopraffino. Sopraffino. Molto sopraffino. Beastie Boys, No Open Letter to New York, questo è il remix di Nopius. Nopius, yes. Bronx, Queens, and Staten, from the Battery to the top of Manhattan, Asian, Middle Eastern, and Latin, Black, White, New York, you make it happen. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten, from the Battery to the top of Manhattan, Asian, Middle Eastern, and Latin, Black, White, New York, you make it happen. Brownstones, water towers, trees, skyscrapers, riders, prize fighters, and Wall Street traders. We come together on the subway cars, diversity unified, whoever you are. We doing fine on the running nine line, on the L, we doing swell on the number 10 bus. We fighting bus, you know we thorough in the boroughs, cause that's a must. I remember when the dudes was all grown up flicks, and running home after school, a two-plate pigs. At lunch I rolled up the bigs down on Montague Street and hit the Fulton Street Mall for the sneakers on my feet. Dear New York, I hope you're doing well. I know a lot's happened and you've been through hell, so we give thanks for providing a home. Il remix di Nopius, No Open Letter to New York dei Beastie Boys. Siamo tornati in Music for Youth, RSD 97.8, Radio Sandona 102.200. Condoglianze, è il momento dei saluti. Beh, condoglianze o felicitazioni per l'ascoltatore medio che finalmente può ritornare a un telegramma radiofonico listato a lutto per noi, non prima che People Mover ci smolli giù tutti i contatti. Esattamente, staremo proprio i contatti alla fine, quanti sono? 2, 3, vabbè, principalmente Nacci gialle. Ah, su pagine gialle attraverso FT. No, dai, fai il serio te per una volta. Faccio il serio per una volta. Su Facebook, ovviamente. Ovviamente, perché ormai chi non ha Facebook, appunto, chi non ha Facebook. Il MySpace, se volete, ve lo ricordo lo stesso, il mio. www.myspace.com/nopius. In Facebook ci trovate sotto People Movers come collettivo. Io sono Nopius Beatbox, lui è Pupo FT, e poi trovate tutti gli altri contatti, varie date. Siamo partiti proprio col 2011 un po' improvvisato, per cui stiamo uscendo con nuove produzioni, le date verranno aggiornate più avanti, per cui lì trovate tutto, insomma. Bene signori, vi ringrazio per aver portato una ventata di freschezza in questi studi. Sì, grazie, perché altrimenti noi questa musica non l'avremmo mai conosciuta. Beh, grazie a voi per averci fatto grazie passare. Grazie una cifra, grazie proprio tanto. Di nulla, questo non vi servirà a nulla, cioè non c'è nessuno scopo promozionale, niente. Sappiatelo. Nel senso, ci è piaciuto farlo perché era così da fare. Autoreferenziale. Giusto due birrette dopo. No, beh, vi auguriamo il meglio, come a tutti quelli che sono passati da ste parti, tranne che a noi due. Sì, esatto. Il meglio l'abbiamo già preso alla vita. Meno male che ci siete voi ancora che fate ste cose. Grazie. Esatto. Cioè, e non domani, cioè, chi farà radio? Non farà più nessuno. Guarda, non lo ancora so. Noi saremo orgogliosi di aver fatto. Oh, a mio figlio gli dirò: oh, io ho registrato in radio. Tieniti l'MP3. Sono andato in radio con le mie tracce. Tu sei capace? A piede libero, tra l'altro. Mica bruscolini, come dice sarebbe mio nonno. È un misto tra brustolini e bruscandoli. Romani, sono i semi di zucca. Rigorosamente romani. I portici li raccogliono. Li raccogliono spesso perché nei fossi. Se diventa dislessico. Serata neologismi. I portici li raccolgono nei fossi, no? Esatto, non lo sapevate? Sì, mentre sull'argine i portici. Mentre componevano signori pezzi trip hop, anche loro una costola di Massive Attack, Progetto Bristol, eccetera eccetera, insomma Bristol Sound per loro, una serie di dischi all'attivo che a me piacciono particolarmente molto. E poi lei ha una voce, esatto, la voce di lei è un qualcosa che magico. Non lo so, se hai dei peli nel petto te li alza, soprattutto se sei donna e hai dei peli nel petto, ecco, sei meno guardabile, per carità, però... Glory Box dei Portishead, grazie Favoto per la solita cultura che ci porti all'interno di queste quattro mura. Grazie, la nostra dislessia è arrivata a livelli estremi. No, terminerà a breve, appena vado via io. Grazie People Mover, Glory Box dei Portishead, ciao a tutti, alla prossima settimana. Ciao. So tired of playing with this bow and arrow. Gonna give my heart away, leave it to the other girls to play. For I've been adventurous too long. I just so wanna be a woman. sign.